Ed eccoci pronti a svelare le carte, le soluzioni del test attitudinale di quest'oggi, che vi chiedeva di ricordare la celebre pellicola Animal House con il grandissimo, indimenticato John Belushi nel personaggio di Bluto. Chi era Bluto? Era forse, come ipotizzato nella prima risposta, l'inseparabile amico di Topolino? Bluto e Topolino? No, l'assonanza è gradevole, ma non è questa la risposta giusta. Risposta sbagliata. E allora forse Bluto era uno degli sgangherati componenti del gruppo Delta, una delle confraternite per studenti del college, come ipotizzato dalla risposta B? Infatti, esatto! Questa è la risposta giusta. Se lo ricorda, toga, toga, toga. Toga! Oh. Ricorda quella bellissima scena in cui Belushi si fa prestare la chitarra da quel cantautore romantico. La strappa e la sbatte contro il muro. Tra l'altro leggevo che sembra che questa immagine che lei ci ricorda non era scritturata. Cioè Belushi doveva scendere le scale e basta, e invece ha improvvisato prendendo la chitarra e sfasciandola contro il muro. Può essere. Può essere, può essere. Anche perché, voglio dire, il cantautore Melenso sulle scale invitava ad un gesto del genere. Chiudiamo tranquillizzandovi: Bluto non era il rettore del college dove si svolgeva il film. Parecchi punti se avete risposto all'opzione B. Complimenti. Se avete sbagliato, restate con noi. Prima o poi la fate. Ce la potete fare. Ci riuscirete. Signore. Beh, è stato piacevole e carino da parte sua di averci fatto visita. Qui bisogna fare qualcosa. Diceva sul serio questa volta. Secondo me sa tutto sugli esami. Hai ragione. Hai ragione. Bisogna fare qualcosa. Assolutamente. E sai che faremo? Un toga party. Siamo sotto doppio controllo segreto e non so che cavolo sia. Non possiamo fare un toga party. Voi che cosa ne pensate? Toga! Toga! Ma vedi, pare che l'idea sia piaciuta. No, Otter, non farlo, è una pazzia. Non hai capito niente, amico. Quelli ci fregheranno, comunque vadano le cose. A questo punto, tanto vale divertirci un po'. Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Toga! Oh, she's a little Si intitola Runaway e lui è Bon Jovi. Ragazzi, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, vi siete persi una gran 35esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, ma abbiamo ancora le nostre porche cartucce da sparare. Nell'ultima mezz'ora di diretta, vi avviso, c'è una rubrica nuova che non è niente male, anche perché secondo i calcoli oggi dovrebbe esserci la canzone dei Beatles in italiano, eh? Non che nessuno di voi si sia lamentato che non l'avevo ancora sentita, ma potremmo stupirvi, quindi restate incollati alla frequenza che si spacca tutto anche quest'oggi. Delle strombazzate veloci, dicevo, Alba, ho un colloquio, strombazzata, tra l'altro ho sognato che mi dicevano in ufficio si ascolta Rock FM. Dite che sono messa male? Sì, Alba, è ovvio che sei messa male. Abbiamo anche, no, fatemelo ritrovare, vi prego, eccolo qui, Antonio da Forlì, mi serve l'intervento di trombetta. Stasera la squadra di calcio che alleno gioca. Quest'anno abbiamo perso sempre. La squadra si chiama Atlantis. Ciao Antonio da Forlì. Antonio, guarda che ti stiamo vicini. E speriamo. No, non voglio dirlo, che sennò ci rimani male. Comunque, facci sapere come va. Noi vogliamo sponsorizzare la tua squadra. O meglio, se continuate a perdere, io voglio sponsorizzare la squadra, perché mi piace stare dalla parte della nicchia, ok? L'importante è che prima o poi vinceremo. Veloci, perché abbiamo il reparto calendari che non molliamo, vogliamo stare sul pezzo, vogliamo arrivare a dicembre preparati e che nessuno di voi vada a comprare un calendario, perché tanto ve l'abbiamo fatto vedere noi. Quindi tra pochi minuti, vi avviso subito, Uomini Nudi su Rock FM. Abbiamo da congedare, Non Ci Resta Che Piangere. E chiudiamo con un gran pezzo, ragazzi, La Lettera a Savonarola. E allora... Caro, con l'educazione. Vai. Allora, iniziamo a fare conoscere, cerchiamo di fare un luogo a noi. Allora, dettela te la lettera. Vai, non si dove. Santissimo Savonarola. Santissimo. Santissimo Savonarola. Come va? Santissimo. Santissimo. E che? Oh! Diamoci una calmata, come dire, tutti insieme. Diamoci! No, sbagliato. Diamoci. Diamoci una calmata, eh! Oh! Che? Ma qua pare che ogni cosa uno non si può muovere, che questo, quello è pure per te. Oh! Ciao! No, qua c'è un saluto per bene, proprio, cioè da peccatore umile, capito? No? Ti salutiamo, sì, con la nostra faccia sotto i tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Cioè che vuol dire? Cioè, la faccia sotto i piedi e si può camminare, ma così lo pensi proprio a Timba 2. Bellissimo. Umile, capito? Bellissima immagine. Esatto. Quella faccia sotto. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare quanto e piace. Ti pare e piace. E noi zitti sotto. Vabbè. By order of Tracu, tracu, tracu! È pane, burro e rock and roll che fa tracu, tracu, eh? Sia ben chiaro, ragazzi, là fuori. C'è il marchio registrato, eh? Non fateci arrabbiare. Rock the Casbah, i Clash. Passiamo a un'altra rubrica che sta prendendo corpo nelle ultime puntate. Non ha un senso preciso come tutte le rubriche, come tutte le cose che facciamo a pane, burro e rock and roll. È l'inutilità che spinge i nostri animi a cotanto impegno. L'idea base è andare contro le regole della radiofonia che imporrebbero di far vedere uomini e donne nude. Questo è uno. La seconda è che vogliamo distruggere le vendite dei calendari mostrandoveli in diretta radiofonica. C'è un amico che ci aiuta nel descriverci le signorine nude, ma soprattutto c'è un'amica che ci aiuta a descrivere i signorini nudi. Buongiorno Rosy. Buongiorno a tutti. Senti, oggi nervosetta Rosy, eh? Oggi sì, sì. Tra l'altro ci siamo detti in fuori onda di quello, il calendario che vuoi trattare oggi, sarà difficile. Ci proviamo Rosy, ok? Ci proviamo. Allora, Rosy scopre che esiste un calendario dei mormoni. Esatto, esiste questo calendario degli ex missionari mormoni, sì. Pensato, ideato da un altro ex missionario, tale Chad Hardy, sì. Al fine di promuovere, finanziare economicamente le missioni mormoni nel mondo. Allora, provo io a ricordare velocemente che i mormoni sono una religione, è una chiesa, fondata nei primi dell'Ottocento, senti come sto preciso, dal buon Smith che un giorno, in un bosco vede Dio e il figlio di Gesù Cristo gli consegnano un libro che è il libro di Mormon e fanno questa religione. Quindi i mormoni sono una religione. Salutiamo tutti i mormoni all'ascolto in questo momento, siamo in squadra con voi, ve lo ricordiamo. Esatto. I mormoni americani decidono di fare un calendario. Infatti, decide questa persona di fare questo calendario con tanto di società, Mormon Exposed, con un sito in cui uno si può connettere, acquistare il calendario, sì. E curiosare un po' sulla religione mormone per avere delle informazioni sulla loro attività. E al fine di aumentare le connessioni e le vendite, si sono inventati anche un bel sondaggino. Sì. Per scegliere il mormone più bello. Ecco, tra allora, i 12, sì? I più gettonati di questo mese, comunque dell'inizio dell'attività, sì? Sono Mister Aprile, sì. Che pare essere oltretutto il clone di uno dei candidati alla Casa Bianca. Allora, ferma prima di entrare in polemica internazionale. Partiamo con il mese di aprile. Il tuo compito è farci vedere gli uomini nudi, descrivicelo. Allora, è un calendario religioso, quindi non sarà nudo. No, sono semplicemente a torso nudo, con praticamente questi pantaloni neri che credo sia la loro tenuta ufficiale, okay, perché sì. Girano giacca, cravatta, sì. E camicia, quindi senza camicia. Sì. Il personaggio in questione è raffigurato in un giardino, su una panchina mollemente adagiato, con sulla parte destra dei fiori gialli, forse dei crisantemi, e sullo sfondo. No, come dei crisantemi? E non è bellissimo. Dei crisantemi? Sembrerebbero di sì. Va bene, ok. Va bene. Però fa un po' spirituale, forse. Ecco. E sono mormoni. E in sfondo facci sognare. Una piscina, o comunque potrebbe sembrare, a dir la verità, la fontana che c'è davanti alla Casa Bianca, secondo me, per. No, allora, tu, Rosy, ho capito dove vuoi andare a puntare. Perché la preoccupazione legata a questo calendario dei mormoni, se non ho capito male, è che ha creato un putiferio in America. Infatti, c'è una polemica, a quanto pare, mossa dalla stampa. Sì. Insomma, questa strana coincidenza che per la prima volta hanno un candidato alla presidenza di religione mormona. E sul calendario ci sia un sosia, tra l'altro è il più brutto dei 12. Ah, quindi hanno scelto uno, la polemica che... No... che noi non condividiamo, tra l'altro, Rosy, è che questo bel mormone scelto sia molto simile al candidato mormone. Esatto. Visto che, a quanto dice la stampa americana, la religione mormona è piuttosto omofobica, perché è basata su principi legati alla famiglia. Oggi ci vai pesante, Rosy, però, E quindi tu dici un calendario col maschietto nudo un po' gay friendly Potrebbe aiutare. Rosy, ricevere una prima bella denuncia grazie a te mi farebbe veramente piacere. Quindi ci sentiamo prossimamente per i prossimi uomini nudi, ok? Va bene. Grazie ciao. Del servizio. Ciao. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more, she practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in nothing. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Herself, there's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears he knew it, now she swears he's Frick, mi permetta di dirlo, che gran dono che è la radio. Eh sì, vero. La radio, lei mi diceva poco fa, è immaginazione. La radio può permetterti di immaginare quello che vuoi, può permetterti di riscrivere la storia. Può permettere di approfondire con la fantasia, ma anche con la ricerca. Ci siamo chiesti a volte cosa sarebbe successo se i Beatles fossero nati in Italia, ma potremmo porci un'altra domanda. Potremmo riscrivere la storia del rock agli albori, agli inizi, e chiederci cosa sarebbe successo se i grandi della storia del rock avessero inciso con pochi soldi, pochi mezzi a disposizione, che ne so, dopo cena. O dopo pranzo, dopo il breakfast. O dopo il breakfast. Per esempio, cosa sarebbe successo se David Bowie in persona avesse registrato Rebel Rebel a quest'ora, dopo una grossa colazione inglese? Anche e soprattutto per stringere i tempi, perché, insomma, bisognava anche risparmiare, ottenere il massimo col minimo sforzo. E allora, Frick, sogniamo. Permettiamoci di sognare. Se David Bowie avesse inciso Rebel Rebel subito dopo colazione, ecco cosa sarebbe potuto succedere. Sentiamo e immaginiamo. Ok, David, are you ready? Ok, guys, I've got it. Yep, let's start with the first session. From the beginning, please. Ok. From the beginning, please. 3, 2, 1, go, David. You got it, yeah. Yeah, thank you. You got it, Dave. You got it. Yeah. Yeah. Okay. Rebel, rebel. Oh, sorry. I'm so sorry. It was the breakfast. You know the breakfast, you see? Yeah, I got it. Okay, David. No problem. No problem. The bacon this morning. The bacon. Yeah, okay. No problem, David. Please. Can we do it again? Okay, David. No problem. Are you ready? Yes, I am. Thank you. 3, 2, 1, let's go. Okay. You got it, David. You got it. Okay? Here we go. 3, 2, 1. Rebel, rebel. Oh, sorry. It was the breakfast, I mean the bacon. Those fucking British pudding. Okay, David. No problem. Let's do it tomorrow, maybe. I don't know. Okay. It's better tomorrow, thank you. Okay, let's do it tomorrow. Thank you. I'm so sorry. Excuse me, pardon me. Got you. Chiediamo scusa a David Bowie per l'ironicità con la quale abbiamo affrontato un'ipotetica registrazione di Rebel Rebel, che poi però ci siamo gustati. Mancano 2:20 alle 9, faccio i conti alla rovescia, non sono capace, e quindi questa è la fine. Segnalazione all'alba del 19 di ottobre che non avrei mai voluto ricevere. Ieri pomeriggio, passando dalla Rinascente di Viale Certosa, ho visto che dal retro scaricavano addobbi natalizi. Facciamo come a Frigidaire che segnaliamo gli addobbi natalizi? Ragazzi, però poi ve la fate e ve la costruite voi, eh? Grazie per la segnalazione, è ovvio che la faremo, la rubrica sugli addobbi natalizi. Sigla! Che puntata, ragazzi! La 35 la ritrovate tra qualche minuto su RadioRockFM.com oppure in podcast. E ne stiamo pensando altre. Pane, burro e rock and roll. La nicchia vincerà. La tua colazione rock. Solo grazie a voi, amici. Pane, burro e amiche. Rock and roll. Spacchiamo tutto, ragazzi. Evito i commenti sulla rubrica di David Bowie, eh? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. In diretta dalle 7 alle 9, ogni giorno pane, burro e rock and roll. Caro Garavelli, ce l'abbiamo fatta anche questo giro. Open. Ah, è aperto? Sì, sì. No, avevo aperto un altro. Okay, Spadino. Spadino, il direttore, me lo devi trattare bene. Che gli apri il microfono sbagliato. È fine settimana, posso capire. Messo male anche lui, eh? Posso capire. Anche perché a Spadino abbiamo affidato il compito di truccarci da zombie per questo weekend. Ah, è vero. Sì. Trovato il polistirolo. Ho trovato il polistirolo. Ho in macchina. Tra l'altro, è stata dura caricare 10 tavole da 1 metro per 1 di polistirolo nella mia macchina. Non ci stava. Quindi adesso la macchina battimento di sedili, piena zeppa di polistirolo tutto distrutto, immaginati come andrà a finire. Vabbè. Non vedo l'ora di vestirmi da zombie. Poi grazie Garavelli, scusa, permettimi. Tra l'altro ieri mi hai detto la temperatura scende di 10 gradi, c'era un Phonak all'Arate. Guarda, che era bollente. Non lo so, non ti auguro di trovarla né durante il tragitto, non te l'auguro. Io continuo a toccare Mister Trombetta, vai, che vai. Non si sa mai. Vi lascio con Marco Garavelli fino al mezzodì e ovviamente in chiusura Topo Rogna e Troppo Frigo. Ciao Garavaus. A lunedì prossimo. Ciao ciao ciao ciao. Ehi Rogna. Sì Frigo. Sai, stavo pensando alle domande fondamentali della vita. Tipo? Ma sì, quelle cose. Perché siamo qui? Dove stiamo andando? Meglio il formaggio stagionato, quello fresco? Guarda Frigo, che tutte queste cose che ci iniettano fanno proprio male. Ma guardati come stai messo. È ovvio che è meglio il formaggio stagionato. Ma che storie ti tiri?